pezzo della libertà e a volare con te. Vedi, non mi importa, forse è tardi per ripensarti. Se ti ho chiesto una volta di provare a liberarmi, oggi piango ancora e tu non mi guardi, ma dove guardi? So che non ti importa, forse è tardi per ripensarci. A volare con...